24 mattino. Ti immagini se ti firmo la giustificazione io? Cioè, c'è un sedicenne che ha il primo sabato a scuola, che si iscrive al PD, che, come si dice voi, bigia la scuola, come lo dite voi a Milano? A Torino taglia, fa forca a Firenze, a Napoli fa filone. Vabbè ragazzi, in shish non so come si dice, però il problema è che chiede a me di firmare la giustificazione. Ti immagini, mi diranno che falsifico, in questo periodo diranno falsificata la giustificazione. E vabbè, se si falsificassero solo le giustificazioni sarebbe un passo in avanti, mettiamola così. Ti ricordi quando si faceva sega a scuola? Questo è il lemma romano, ma noi parliamo di Renzi e di Consip. C'è una guerra che è anche una guerra sui giornali. La bellezza e lo spettacolo della carta è che potete avere le due opinioni opposte su questa inchiesta che divide in questo momento l'Italia. Allora, l'apertura del Fatto, quasi polemica con gli altri giornali, il GIP più duro di Woodcock, gravi indizi di corruzione su papà Renzi, cioè il Fatto di dice: non raccontateci sciocchezze con Scafarto eccetera, c'era molto e molto su cui indagare. E infatti, questo è diciamo l'esclusiva di Lillo, il GIP che giudicò sull'inchiesta disse: intercettate Tiziano, su di lui gravissimi indizi di corruzione. Anche se il decreto spingeva ad essere più severi, scrive Lillo sul Fatto, il PM non ha mai indagato il padre dell'ex premier. E questo è il Fatto. Ma se volete avere l'idea di come si può essere divisi, c'è un giornale che scrive esattamente l'opposto ed è Il Foglio. Il Foglio oggi ha due editoriali, uno di Lillo e uno di Giuliano Ferrara, che sono tutti contro queste inchieste e sostengono la tesi del golpe. Il caso Consip, la Repubblica giudiziaria che nessuno vuole vedere, Claudio Cerasa. Legittimare chi imposta le proprie indagini per dimostrare un teorema più che un reato non solo fa un torto alla giustizia, ma crea un pericolo insopportabile per la tenuta del paese. Il contesto è chiaro, scrive Cerasa, il meccanismo pure, la dinamica non ne parliamo. E giorno dopo giorno il caso Consip si sta rivelando per quello che è: un'indagine legata a un caso di presunta corruzione trasformato dal circo mediatico giudiziario in una bomba orologeria da sganciare al momento giusto contro il potente di turno, cioè contro Renzi. Ma tutto il giornale del Foglio del lunedì è dedicato a questa inchiesta, il metodo Woodcock, l'apertura di Hermes Antonucci e poi Giulianone Ferrara. Scolorire, attenuare, anche la verità va in ferie. La verità va in ferie, l'ultima trovata italiana, racconta Ferrara. Hai voglia a scrivere qui mesi fa di Watergate a parte rovesciate, con falsi sospetti orchestrati da inquirenti carabinieri per sputtanare il Presidente del Consiglio e capo del partito di maggioranza in Parlamento? Hai voglia. Con altre parole, ma da testimone diretto, un magistrato donna di Modena dice le stesse cose a metà del luglio scorso. E questo è quello che potete immaginare su questo Watergate italiano, è stato chiamato così. Però, mentre un ascoltatore riconosce Merillion, io ne approfitto per lanciare 349-238-6666 per le vostre indicazioni di volo. Però dobbiamo entrare di nuovo nel romanzo dello Ius Soli, perché signori c'è un colpo di scena. Arrabbiarti, diventare rosso quando poi parli di donne e diritti della donna e poi un uomo bianco che urla addosso a una donna come c'entra? Me. Quindi ti prego, abbassa il tono. Se qualcuno non è d'accordo con te o con Rampini, non è sessista. No, cioè, però, Rampini, guarda, se io discuto con Rampini, non è che può dire che sono sessista. Stai portando la questione da un'altra parte. Nicola, è molto semplice. Il tuo giornale ha fatto una battaglia contro i ragazzi che sono nati qui. Giovedì, Piazza Pulita, il litigio fra Nicola Porro e Rula Gebral. L'idea della razza pura, di persone che assomigliano a te, parlare, che parlano come te, che ascoltano sono te. Sei sessista. Sessista, razzista, uomo bianco, donna nera. A che cosa siamo arrivati? Al conflitto più che di civiltà, di razza. Però oggi Repubblica, un'apertura con una doppia notizia. Attenzione, intesa governo Vaticano, sia lo Ius Soli entro l'anno. Ed è praticamente uno scoop, perché è un doppio pezzo composto da un lato da una cronaca di Paolo Rodari, il vaticanista, che racconta dell'incontro e del dialogo. Peraltro lo racconta anche il Corriere, però con meno enfasi, fra la Santa Sede e, pensate, Marco Minniti, il ministro. Nessun rapporto con gli sbarchi, via libera alla legge in questa legislatura. E Monsignor Ravasi, basta volgarità. Ad Assisi il dialogo fra il titolare del Viminale e il cardinale. Dobbiamo fare una battaglia politica e culturale. E allora sapete che, siccome è 4 giorni per chi ci segue che raccontiamo Ius Soli sì, Ius Soli no, Ius Soli sì, Ius Soli no, questa volta è il giorno dispari, il lunedì. Ius Soli sì, secondo quanto dice uno dei ministri più pesanti e importanti di questo governo. E l'intervista a Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, che conduce una battaglia solidaria e tenace su questo tema. Centristi e Forza Italia rivedano le loro posizioni, mi sembra ottimista. Ma poi, dicevo, la notizia è un retroscena di De Marchis, che racconta quel patto fra Gentiloni e il Vaticano. Alfano, ascolti la Chiesa e sia coerente, racconta Goffredo De Marchis su Repubblica. Siamo a pagina 3. Smuovere Alfano. Se i centristi non ascoltano la Chiesa, chi dovrebbero ascoltare? Dicono a Palazzo Chigi. Paolo Gentiloni confida molto nella sponda del Vaticano per sbloccare lo Ius Soli. Le gerarchie fanno pressing sul mondo di riferimento di AP, come dimostra la prima pagina del quotidiano della CEI di Avvenire di ieri. Il governo marca stretto il ministro degli esteri per costringerlo a trovare i numeri in grado di dare via alla legge sulla via libera alla legge sulla cittadinanza. Ma smuovere Alfano non è facile, nonostante la tenaglia. Il leader di Alternativa Popolare segue la strada opposta sul tema dei nuovi italiani. Immobilismo assoluto. Per paura che il partito esploda, se fa un passo avanti sullo Ius Soli, il castello crolla. 3 senatori siciliani, Torrisi, Pagano, Mancuso, hanno già scelto di appoggiare Nello Musumeci in Sicilia ed è l'antipasto di una fuga a destra. Altri 3, Formigoni, Albertini e Sacconi, sposano il progetto di Stefano Parisi, costola del berlusconismo in vista delle elezioni. Sono questi i numeri certi che mancheranno a Palazzo Madama, dove già si balla sul filo. E mentre Peter Gabriel intona questo coro, la politica diventa come un giallo, come una grande battaglia. Bene, voltiamo pagina e andiamo a raccontare i grandi protagonisti, perché ieri è stata una giornata di protagonisti politici e è stata una giornata in cui hanno parlato, come abbiamo visto, Grillo, Berlusconi, Salvini, Prodi con una battuta perfida, cattivissima sul PD, e in cui si è rotta di nuovo MDP e campo progressista, e in cui Maria Teresa Mela ci racconta un retroscena che potrebbe cambiare qualcosa sulla legge elettorale. Però, dopo la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Si avvicina la manovra. Luca Telese, Radio 24, numero per chiamare più avanti, 800 24 00 24, numero per i vostri sms di navigazione 349 238 6666. Mentre mi arrivano tanti messaggi arrabbiati per la notizia che ho dato, il patto, chiamiamolo così, il nuovo patto Gentiloni fra Vaticano e governo sullo Ius Soli, e però siamo qui a parlare, ne discuteremo più avanti con Oscar Giannino e fra un po' anche il collegamento con Genta per la super pillola dello sport. Ma vi devo parlare di una doppia paginata fantastica, è il Sole 24 Ore di oggi. Un plotone di colleghi ha lavorato a queste pagine, Cristiano Dell'Oste, Valentina Maglione, Mauro Meazza, Valentina Melis, e sono le idee semplici per migliorare il fisco: accertamento, reddito d'impresa, imposte locali, IVA, interventi possibili a costi ridotti o nulli. E io, c'è una di questi temi che mi sta particolarmente a cuore: le deduzioni più lineari, dai cellulari alle auto. Bisogna che in questa manovra cerchino di mettere un po' di calma dentro la giungla. Allora, la giungla dei tributi, dei balzelli, da cui non ci si salva. Allora, Primo Cappellini, Cepellini, scusate, e Roberto Lugano ci spiegano. In primo luogo, a livello minimale si potrebbero evitare le complessità burocratiche nella gestione dei beni con costi a deducibilità limitata, per esempio le auto, e ne puoi dedurre una parte solo per uso professionale, una parte per uso personale, e il giovedì mattina, il lunedì il 50-40%. Insomma, si potrebbe evitare per le auto, il caso più complicato, e i telefonini, ma più in generale, scrive Il Sole, per tutti i beni ad uso promiscuo. Si dovrebbe semplicemente stabilire il limite massimo ai costi deducibili, determinato come parametro da applicare ai ricavi dell'impresa. E poi l'altro consiglio: abolire l'IRAP. Sempre dal pezzo di Cepellini e Lugano, basta trasformare questo tributo, da sempre incomprensibile per gli investitori esteri e odiato dai contribuenti italiani, in un addizionale regionale dell'IRES. Sono consigli per la prossima manovra, ma chissà se saranno in grado di accoglierli. E allora torniamo alla politica con il blob della Pontida che fu. Baionetti in canna, paese per paese, villaggio per villaggio andremo a slidare, anche nel profondo sud, la partitocrazia. Ci facciamo portare, ve lo ricordate? Nella cittadella del potere, e poi apriamo lo sportello e usciamo, spada in mano, a segargli il collo a tutti questi porci mafiosi. Spade in mano, Umberto Bossi, un tempo. Roma, ladrona, la Lega non perdona. Roma, ladrona, la Lega non perdona. Roma, ladrona, Roma non perdona. E allora, la rabbia di Bossi giù dal palco, sì, perché... Bonanza nostra, la Lega non ha bisogno di armarsi. Noi siamo sempre armati a Bona di Manico. Era la storica invettiva, uno dei primi scandali contro Margherita Boniver, allora sottosegretario. Lega, Lega, Lega. Questo Bossi non c'è più, c'è oggi un Bossi malinconico, che è il grande sconfitto di Pontida. Salvini, un'ora di show, di comizio, in cui anche nella voce, se lo avete sentito, sembrava identico al suo maestro, ma un maestro superato dall'allievo. E infatti Bossi, impedito a parlare dal servizio d'ordine della Lega, si arrabbia giù dal palco, dice: quello conta balle, io me ne vado via. Matteo Pucciarelli, sul Ratone di Pontida, racconta questo momento. Resiste pure uno stand con i vecchi gadget padani, tipo le vecchie 100.000 lire con la faccia dell'Umberto col sigaro stampato sopra, ma per il resto siamo alla Pontida e l'addio. Fra il fondatore della Lega e il suo stesso partito, ormai diventato un lontano parente di quello che lui cominciò a immaginare all'inizio degli anni 80, è rottura. Matteo Salvini lo prende da una parte, prima dell'avvio della manifestazione, sono entrambi sul retropalco, e gli spiega: Umberto, meglio che tu non prenda la parola oggi. La storia dei 48 milioni di euro che lo Stato rivuole dalla Lega, i conti del movimento bloccati dai magistrati, la condanna in primo grado ai danni del Senatur, rischi di venire fischiato, quindi abbiamo deciso così. Non c'è dibattito. Vero è che al congresso di Parma, lo scorso maggio, i fischi per Bossi non furono pochi, anzi, la presidenza invitò a portare rispetto al grande vecchio. Ma non c'è solo questo. Nei momenti importanti parla uno e basta. Ragiona il segretario federale, nonché candidato presidente del Consiglio. Non vuole più contraltari. E questo forse è l'addio di Bossi? Lo vedremo. Salvini, il nuovo leader, è ospite con noi, con me Oscar Giannino, questa mattina, soprattutto per raccontarci che succede sull'inchiesta. Allora, questo comizio diviso in due, da un lato durissimo sull'immigrazione, dall'altro quasi di sinistra, potremmo dire, no al Jobs Act, spesa sociale, reddito minimo, o non reddito minimo garantito, ma lavoro garantito per tutti, insomma un Salvini a due facce. Paolo Berizzi, inviato di Repubblica, sul prato sempre meno padano della nuova Pontida, versione quasi nazionalista. Matteo Salvini sfoggia il piglio dell'uomo solo al comando, e così ha fatto e ha strafatto. Ha parlato un'ora il capitano, camicia bianca fuori i pantaloni, i toni muscolari di uno che si sente già capo d'Italia. Menù iperpopulista con una strizzatina d'occhio alla destra radicale: quando l'anno prossimo andremo al governo cancelleremo la legge Fiano e la legge Mancino, la storia, le idee non si possono processare, daremo mano libera, racconta Berizzi raccontando il comizio di Salvini, daremo mano libera a uomini e donne delle forze dell'ordine per darci pulizia e sicurezza. Questo il nuovo Salvini, ma c'è anche il nuovo Berlusconi. Nuovo si fa per dire, perché intanto fa una missione, dice: ormai sono vecchio, scherza, lo abbiamo sentito, la leadership è mia, la Lega si rassegni, dice, e il Corriere della Sera, ma anche qualche altro giornale, mostra l'ingrandimento dell'ultimo trucco. Sapete, Berlusconi ha sempre queste protesi, diciamo, sceniche, spettacolari. È nato l'albero del programma ed è un albero azzurro con al centro il simbolo di Forza Italia. E sto leggendo da pagina 3, alla convention Silvio Berlusconi ha presentato l'albero che sarà il centro della campagna elettorale di Forza Italia. Ogni ramo è un tema e porta tre frutti che sono soluzioni elaborate dal partito dell'ex premier. Berlusconi, messaggio per il Carroccio: centrodestra creato da noi, e arriva l'appoggio del Partito Popolare Europeo. Il retroscena di L'Abate, bello. Il leader dimagrito si riprende la scena. Io faccio sul serio, lo avranno capito? Chi lo sa? Dopo il discorso di oggi, secondo voi lo capiranno che faccio sul serio? Difficile individuare chi si nasconda dietro la terza persona plurale evocata qualche minuto dopo essere sceso al palco. Mentre l'eco dei Silvio Silvio ritmati alla platea non si è ancora zittito del tutto, scrive L'Abate, sicuramente i leghisti di Matteo Salvini, senz'altro i grillini che si apprestano a incoronare un altro candidato premier, Luigi Di Maio. E questo è il pezzo da cui poi salta fuori una battuta di Tajani, presidente del Parlamento Europeo, che dice: avete visto quanta figa qui intorno? E sono degli indici un po' strani, un po' particolari, ma lo dovevamo riferire. Allora, invece c'è lo show di Prodi. Prodi e Letta insieme, Matteo stai sereno, e staffilate, bordate contro il PD e contro Renzi. Prodi, la tenda l'ho persa, aveva detto che l'aveva ripiegata questa tenda che stava a fianco al PD, poi l'ha ripiegata e adesso dice che addirittura persa. E poi una battutaccia, leggo dal pezzo di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, una battutaccia: quando è nato il PD è più facile dire quando si scioglierà. È solo un gioco, uno show per chiudere con il sorriso la Summer School della scuola di politica di Enrico Letta. Eppure, racconta Monica Guerzoni sul Corriere, fa effetto vedere due ex presidenti del Consiglio stimati in Europa e nel mondo che davanti a 300 giovani aspiranti leader si sottopongono allo stai sereno quiz di Enrico Bertolino, Luca Bottura e Marco da Milano. Scherzano sul passaggio della campanella nel 2014 e sulle note di Despacito. Prodi e Letta canticchiano un motivetto sulla fine prematura del Partito Democratico. Sentite il motivetto: era un bel sogno ed è già svanito, ad aprile rischia il ben servito. Indovinate chi? Questo è quello che accade in casa Dem, diciamo così, e il retroscena che vi ho preannunciato, Maria Teresa Meli. Attenzione, perché questa è l'ultima offerta, l'offerta dei democratici, cioè di Renzi a Pisapia, sul sistema di voto per provare a sganciarlo da MDP, cioè dai bersagnani. Il Partito Democratico sarebbe disposto, scrive Teresa Meli, a rivedere la legge elettorale riprendendo in mano il Rosatellum, cioè quella riforma che nella primavera scorsa il capogruppo alla Camera dei Deputati Rosato aveva elaborato sulla base di un accordo fra PD e Pisapia. Un Mattarellum corretto, senza lo scorporo, con una parte dei seggi assegnati secondo il sistema maggioritario nei collegi e il resto proporzionale. Questo accordo consentirebbe a Pisapia l'accordo per presentarsi insieme ed eleggere i deputati. Segnalo il fondo di Magris sugli sfidanti a sinistra che fanno male a litigare e attenzione, perché questo retroscena della Meli potrebbe essere veramente la chiave di un patto che cambia le regole anche per la destra. Strade! Despacito. Eccola la canzone dell'estate, quella che mette in imbarazzo i padri quando arriva tuo figlio e ti chiede: ma davvero labirinto vuol dire la vagina? E tu rimani paralizzato. Pensare che Prodi abbia canticchiato sulle note di Despacito mi mette un po' di ansia. Allora, mancava Grillo al grande racconto di queste pagine politiche e primarie del Movimento 5 Stelle, l'alto là di Fico. Grillo sta mediando sul capo politico, cioè sul fatto che chi vince le primarie abbia tutti i poteri, cosa che piace molto a Di Maio, vincitore annunciato, ma per niente a Fico. E attenzione, una rivoluzione a scatola chiusa, il retroscena di Sebastiano Messina, Di Maio favorito, il resto è confuso, ma soprattutto l'intervista a Gianluigi Paragone, conduttore della 7, che presenterà la serata dei 5 Stelle dopo aver fatto il suo spettacolo sulle banche. Non sono diventato un grillino, ma a Rimini mi sentirò libero. Questo, per chi vuole, l'intervista su Repubblica a pagina 9 e attenzione, perché è giunto il momento di fare il punto sul calcio. Gentiletti rischia e sbaglia, serve Immobile, Immobile va da solo contro Perin, Immobile contro Perin, pallonetto, palo e poi gol, due volte giro Immobile, erroraggio di Gentiletti e la Lazio è di nuovo avanti. Allora, c'è stata un'obiezione di coscienza qui in regia, non si voleva mandare questo gol che era della Lazio, ma è l'ultimo gol pesante di una giornata in cui le grandi vincono sempre di più, record come segnala Sconcerti delle squadre a punteggio pieno e le piccole perdono sempre più, fra queste il Genoa. Allora, il grande Genta si è svegliato ancora ed è qui con noi, vai! Buongiorno. Si è svegliato ancora. Buongiorno a lei. Noi poi gli diamo appuntamento alle 5 per farlo. Sì. No, appuntamento alle 5 e mi hai bucato un'altra volta. E ti chiamiamo alle 8. Allora, senti, sei ma peggio di una, sei peggio di una bella donna, Telese, ti fai attendere. No, perché a te fanno attendere. Senti, che ti volevo dire, quali sono i tre personaggi di questa giornata? Il primo personaggio secondo me è Kimi Raikkonen, perché al di là del calcio tu dicevi sei fatto del male facendo sentire Ciro Immobile, lo so, autolesionismo, questa giornata di campionato secondo me ha dato delle non notizie, perché hanno vinto tutte le grandi, hanno perso le piccole, le altre partite possiamo anche dimenticarle, quindi il primo personaggio di questa giornata è Kimi Raikkonen, che ieri è finito sul banco degli imputati per il botto di Singapore, che ha tolto moltissimo a lui, a Vettel, alle Ferrari, eccetera. Quindi credo che quello sia oggi il giorno di lutto di Marchionne. E va bene. Il giorno di lutto di Marchionne, l'uomo con il maglioncino blu, esatto. E la macchina rossa. E la macchina rossa. Poi gli altri personaggi di questa giornata, vabbè, rovistando tra Immobile è stato un po' personaggio, no? Il grande riscatto, hanno detto che era bollito un bidone e poi Dybala poi Mertens. Dybala, Mertens, sì, Dybala, Mertens, altre non notizie. Il 6-0 del Napoli, un punteggio tennistico, no? Sì, allora stiamo avvicinando sempre di più al campionato spagnolo, che noi scimmiottiamo, diciamo, è allenante, è bello, è vero, figo, anche questo spagnoli. Cioè. Poi quando gioca il Barcellona, giocano Barcellona o Real Madrid contro squadre di medio-bassa classifica, sono botte e gol, come diciamo a Milano, forse. Vuoi spendere tu nordico, e voglio che ne parli anche oggi, una parola per il grande Di Francesco, che ha avuto il coraggio di mettere le palle sul tavolo, ha risposto al retroscena di D'Alema, ha detto mi chiederò consiglio a lei per vincere, e poi ha suonato il Verona 3-0. Ma guarda, che la Roma suoni il Verona 3-0 rientra nella logica delle cose. La Roma ha vissuto una buona settimana, un pareggio 0-0 con Atletico Madrid, che è stato l'unico risultato positivo degli italiani in Champions League, e poi ha giocato questa buona partita contro il Verona. La Roma è una cosa seria. Le sorprese, inutile che Cagliari e Samp. Ora, a parte il Cagliari, sai, c'è anche un'emozione, Barella in nazionale. La Sampdoria ha venduto il suo gioiello chic e continua a macinare punti pure sul campo fortificato del Torino. Sì, qual è il segreto? No, il segreto è il Torino. Cioè, mi sorprende che una squadra come il Toro prenda due fischi in casa senza fare una piega dalla Sampdoria. La Sampdoria è una buona squadra, ben allenata, collaudata, quindi è quasi nella logica delle cose questo. Poi Schick, il suo gioiello, non dimentichiamo che Schick l'anno scorso giocava un po' sì e un po' no, più no che sì. Non era neanche vendere un non titolare a 42 milioni è fantastico. Va bene. Ti sveglieremo ancora, abbiamo la mitragliata che incombe la segna. Grazie Carlo e mi raccomando, ci sentiamo più tardi. Ho scoperto cose straordinarie sui giornali di oggi. Lo sapete che Milano paga il doppio delle multe di Roma? Ma la notizia più incredibile è quella del signore, a proposito di Ferrari, sul Corriere della Sera, che ha parcheggiato nel posto dei disabili e quando è arrivato il papà e il ragazzo disabile ha cominciato a insultarli. Ma questa è gente da catene, non quelle da neve, catene. Una notizia per noi, diciamo, non eccessivamente magri, Il Fatto prende da un convegno scientifico a pagina 23 la notizia che i grassi non sono colpa, eterno dilemma, dei grassi, ma degli zuccheri. Cinghiali a Roma Sud, c'è la foto sul Messaggero, il nuovo problema, cinghiali a Roma Sud, si consiglia di guidare piano, ma che vuol dire guidare piano con i cinghiali a Roma Sud? Facciamoci e respiriamo alto, sempre sul Messaggero, la storia di un uomo che ha salvato il mondo dalla guerra mondiale, il colonnello che evitò l'apocalisse, Petrov, ricevette la segnalazione di far partire, pensate, un bellissimo pezzo di Riccardo De Palo nel 1983, l'ordine di far partire l'attacco termonucleare finale, quello dei film, e disse no. Bene, è morto a 78 anni, voi pensate che lo abbiamo ringraziato per aver salvato il mondo perché poi era un errore, pensate lo abbiamo salvato? No, degradato, dimenticato e umiliato, e noi qui lo ricordiamo. Animali vietati in ufficio. Un sondaggio dice che gli italiani vorrebbero rinunciare ai buoni pasto pur di poterli portare. Il Corriere della Sera, La Lettura, 100 anni di Caporetto viene ricordato con un'iniziativa speciale Racconta la tua Caporetto, bellissimo. L'ultima perla, Gianluca Veneziani sul Libero, la filematofobia, la paura di baciare. Esiste anche questa malattia e adesso è stata scoperta. Ci sentiamo fra poco!